24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7.31, cari ascoltatori, eccoci qua in diretta fino alle 9. Il nostro sondaggio di oggi, vi anticipo, alle 8.30 parleremo della vicenda Fiat e Pomigliano, la vicenda con l'accordo con tutti i sindacati tranne il sì che è mancato della FIOM. Vi chiediamo, secondo voi la FIOM fa bene a non firmare e a bocciare l'accordo su Pomigliano? Dovete votare su radio24.it nell'home page, bianco o nero, ne parleremo alle 8.30. questo è uno dei temi scelti per le aperture dei giornali che andiamo a vedere. Infinity, autosportive che ispirano. Infinity, inspired performance. Vi presenta In Primo Piano. E c'è, oltre a Fiat Pomigliano, anche la vicenda delle regioni. Le regioni contro la manovra finanziaria del governo. Queste le due aperture scelte dai giornali. Accordo separato su Pomigliano per il Sole 24 Ore. Repubblica, Fiat Pomigliano, accordo separato. Titolo praticamente simile. Anche per il Manifesto c'è la foto di Marchionne. Diritti al mercato. Il Corriere della Sera sceglie appunto le regioni. Manovra, le regioni fanno muro. Anche la Stampa, tagli, la rivolta delle regioni. Per il Messaggero, manovra, no delle regioni. L'Unità mette Bersani in prima pagina, c'è un'intervista a Bersani, gioco d'attacco. Mentre il Giornale picchia duro su Fini. Fini in gabbia l'Italia, guerriglia nel PDL sulle intercettazioni. Vedremo dunque anche questa notizia. Come detto, su Pomigliano, che è il tema del nostro sondaggio, su Pomigliano resta il no della FIOM. A pagina 3 del Sole 24 Ore ne parla Giorgio Pogliotti. Sostanzialmente lo sblocco dei 700 milioni di investimento per l'azienda della Fiat, che è legato ai due nodi da sciogliere, l'esito del referendum tra i lavoratori il 22 luglio, e trattandosi di un'intesa separata, la Fiat vuole assicurare una blindatura del testo per mettere al riparo da possibili ricorsi legali. Tra l'altro è stato aggiunto un punto. E sono 18 ora i punti dell'accordo. I punti sono ovviamente quelli che fanno più discutere: quello sugli orari di lavoro che vengono cambiati, quello sui permessi sindacali, sulle sanzioni, sulle misure anche contro l'assenteismo. Per la FIOM sono sostanzialmente un ricatto che non possono che non può essere firmato, perché è anche incostituzionale, laddove mette in dubbio alcuni principi come il principio di sciopero. Per invece i sindacati che hanno firmato, ma anche per l'azienda, molte delle forze politiche, invece è un accordo nel quale, insomma, tra le due parti si rinuncia a qualcosa in nome della salvaguardia dei posti di lavoro e della possibilità di spostare la produzione della Panda dalla Polonia all'Italia. Il ministro Sacconi, ieri scrive il Sole 24 Ore, parla di un accordo positivo. Anche Tremonti ha parlato di rivincita dei riformisti, ma certo ci sono le critiche, le interviste a favore, le interviste contro. Per esempio parla Fausto Bertinotti. Tra l'altro questa vicenda della FIOM ha in qualche modo fatto ritornare in primo piano molti esponenti della cosiddetta sinistra radicale, che in qualche modo attorno a questa vertenza si stanno coagulando, stanno ritrovando a spazio anche politico, quello spazio che non hanno in Parlamento, visto che non hanno rappresentanti in Parlamento. Stanno facendo a pezzi lo statuto dei lavoratori. Così parla Fausto Bertinotti in un'intervista al Riformista. Dice Bertinotti: il carico di ipocrisia dei media, della politica di fronte a una vicenda che punta a ridisegnare le relazioni industriali e la costituzione materiale del paese è enorme. La Fiat qui vuole completare l'opera iniziata davanti ai cancelli di Mirafiori nell'80, fabbriche senza sindacati, lavoratori senza diritti. Siamo a un'idea di democrazia, dice Bertinotti, da modello orientale cinese, non da modello sociale europeo, ma ormai si rivoltano pure a Shanghai. Diversa la posizione sul Foglio, che vi dedica ampio spazio della prima pagina. Marchionne e lo spirito governativo. Per esempio il Foglio intervista Michele Magno, studioso di questioni del lavoro, ex dirigente della CGIL e che è critico nei confronti della FIOM. Dice: Dubito che non conoscessero il piano Marchionne per Pomigliano, compresi gli aspetti che oggi appaiono insormontabili. È per ragioni solo politiche che alle strette la FIOM non compie il gesto più ragionevole e sindacalmente più nobile: firmare facendo presente le riserve, ma firmare comunque. Questo dunque è il tema sul quale anche Vittorio Feltri sul Giornale in prima pagina si cimenta nel suo editoriale, molto critico nei confronti del sindacato della FIOM, il sindacato tribale che raggira gli operai, scrive Vittorio Feltri. Le regole dell'accordo sono, riassumendo, tre turni giornalieri di 8 ore, 80 ore di lavoro straordinario all'anno senza accordo e con minimo preavviso, controllo al computer della produttività degli operai, punibilità per chi decida scioperi in occasione del turno straordinario del sabato notte, se il tasso di assenteismo supera certi limiti, niente indennità di malattia da parte dell'azienda, tutto qua. Ebbene, la CISL, la UIL e un paio di sindacati autonomi hanno sottoscritto la proposta. La FIOM si è opposta. Risultato: bisognerà organizzare tra i 15.000 dipendenti un referendum, e per Feltri appunto lo chiama il sindacato tribale. Comunque la pensiate, eccoci qua nel nostro sondaggio, ne parleremo poi alle 8.30, potete già votare su radio24.it se secondo voi la FIOM fa bene a non firmare. Per ora prevalgono i no con il 71%, ma votate lì, ne discuteremo con ospiti poi alle 8.30. L'altro tema, come detto sui giornali oggi, è il no delle regioni, secco, molto duro, alla manovra del governo. Tra l'altro in prima fila c'è Formigoni, presidente della regione Lombardia, e quindi del Popolo della Libertà, e che dice incostituzionale e irricevibile. Queste le due posizioni molto dure nei confronti della manovra, tanto che il Riformista titola addirittura così: San Formigoni in prima pagina, mentre il Corriere va a intervistare Roberto Cota, presidente della regione Piemonte, che ha una posizione diciamo un po' particolare. Perché? Perché Cota è leghista, Formigoni ha detto attenzione perché con questa manovra è a rischio il federalismo, e allora Cota, come i governatori leghisti, come per esempio Zaia in Veneto, si trova nella posizione di dire la manovra sostanzialmente c'è qualcosa che non va bene, però non si tocchi il federalismo. Cota: sì, siamo penalizzati, la soluzione decidiamo noi come ripartire i sacrifici. In questa intervista, pagina 2 e 3, fatta da Marco Cremonesi, Cota dice: le regioni devono far sentire certo la loro voce, non ci sono dubbi su questo, ma va detto in modo altrettanto chiaro che l'atteggiamento deve essere costruttivo. Ecco perché dice: sul federalismo non c'è nulla da toccare, anzi il federalismo rimane la soluzione giusta. La manovra, dice Cota, non allontana il federalismo, semmai è la prova che il federalismo fiscale deve essere fatto subito. E a Cremonesi, che dice: non è solo uno slogan, no, e dico il perché: col federalismo fiscale le risorse rimangono sul territorio, finisce la finanza derivata, quella per cui la ripartizione la fa il centro, si litiga tra regioni e alla fine paga Pantalone. Poi tra l'altro Cotta conclude questa intervista dando una buona notizia che io attendevo da tempo, immagino anche molti italiani. Presidente, si dimette da deputato, perché Cota, ricordiamo, è uno dei, non l'unico, dei politici che per virtù delle ultime elezioni regionali magari è sia parlamentare e sia, in questo caso, presidente della regione o altri consiglieri regionali, il che è incompatibile per Costituzione. E allora tengono due cariche perché? Visto che la Costituzione dice che non si può essere consiglieri regionali e deputati. Ebbene sì, assolutamente sì, domani mi dimetto, come peraltro era previsto. Non si capisce perché, come era previsto domani, poteva dimettersi anche prima. Comunque si dimette. Ieri si è dimessa anche il ministro Carfagna, che è parlamentare e era anche consigliere regionale della Campania. Si è dimessa e ha detto: i doppi incarichi sono un problema. Infatti ne mantiene comunque due, nel senso che è ministro e parlamentare. Riguardo alle regioni, però, in prima pagina del Corriere della Sera Sergio Rizzo è molto critico, perché fa l'editoriale della prima pagina del Corriere, per l'appunto, Verità e sprechi, iniziando a dire: è vero, i tagli rischiano di penalizzare le regioni più virtuose. Il fatto è, scrive Rizzo, è che le regioni, naturalmente con gradazioni diverse, hanno finito per imitare lo Stato centralista e sprecone, diventando a loro volta centraliste e sprecone, cominciando da strutture ipertrofiche e costosissime. In Lombardia c'è un dipendente regionale ogni 1800 abitanti in età lavorativa. Ebbene, in Campania sono il quadruplo, uno ogni 472. In Molise addirittura 8 volte, uno ogni 226. E poi vogliamo parlare della proliferazione immobiliare? Tutte, ma proprio tutte le regioni hanno una sede a Bruxelles. Case Sicilia in giro per tutto il pianeta, dalla Germania all'Argentina alla Cina. La Lombardia ha avuto 25 consolati regionali in 21 paesi, anche in Giappone. E poi, sapevate che dal 2008 la Regione Calabria è lo sponsor unico istituzionale della Federcalcio? Scherzetto che ci sarà costato in 3 anni alle casse regionali circa 8 milioni di euro? Poi si può andare avanti con le auto blu super accessoriate noleggiate qualche anno fa dalla Regione Veneto. 500 persone entrate in pianta stabile senza concorso al Parlamento della Campania. La recentissima e stravagante decisione del Consiglio regionale del Lazio di pubblicare una rivista cartacea. Insomma, Sergio Rizzo dice: regioni, è vero, fate bene a lamentarvi, ma forse siete sprecone anche voi. E a questo proposito, il giornale oggi, il giornale che sta continuando questa campagna, gli stipendi che pagate voi, oggi si concentra proprio sulla regione Molise, una di quelle che Sergio Rizzo dice al rapporto tra dipendenti regionali abitanti il più basso, cioè uno ogni 226. Ogni 226 abitanti del Molise c'è un dipendente della regione. Accidenti. Evviva il Molise! Molise, la mini regione che spende più delle grandi. Ecco qua, infatti, il giornale. L'amministrazione ha 800 dipendenti, 26 ogni 10.000 abitanti, 2,5 volte la media nazionale. Da record pure le consulenze, o i consiglieri guadagnano 123.000 euro all'anno, ma 123.000 euro è la cifra un po' di tutti i consiglieri regionali un po' in tutta Italia. I consulenti sono tantissimi, sono elencati, vincono, anche qui io li dico sempre, nell'elenco delle consulenze, Giuseppe Scasserra, 210.000 euro di consulenza. Alla faccia, perché tutti gli altri, la media è 40.000, 84.000, 70.000, 82.000, ma Giuseppe Scasserra come consulente si porta a casa 210.000 euro dalla regione Molise. Mentre tra i dirigenti, tutti attorno ai 100.000 euro, spicca solo Gabriella Guacci, 184.000 euro, è il dirigente più pagato della regione Molise. Ma trovate tutto sul giornale a pagina 5 in questa operazione trasparenza che il giornale porta avanti da giorni. C'è molto ancora sui giornali della vicenda appalti, grandi appalti, la cosiddetta cricca, il G8. Bertolaso è stato nuovamente interrogato e su tutti i giornali, da Libero, Repubblica, Il Corriere, Bertolaso interrogato a Perugia e il tema è la casa di Via Giulia a Roma. Quella casa che Bertolaso dice: ho avuto dei problemi familiari, sono andato via da casa per un periodo, prima sono stato in seminario, dice Libero, dormivo in seminario, Bertolaso ci prova, dormivo in seminario, poi un amico mi ha trovato questa casa, un amico di Propaganda Fide. L'amico chi è? È tale Francesco Silvano, lui mi pagava l'affitto, io pagavo solo le bollette, anche se il proprietario della casa, ancora su Repubblica, dice: io non ne posso più di questa storia, chi è questo Francesco Silvano? Non l'ho mai sentito, sono stanco di dover chiarire ancora una volta quella vicenda, inizia a stufarmi di tutte queste bugie, ogni giorno ne sento una nuova, ora questa di Propaganda Fide e di questo Francesco Silvano che io non conosco. Chi paga, e conferma, diciamo, questo proprietario, chi pagava la casa a Bertolaso era l'architetto Angelo Zampolini, che ogni mese mi dava i soldi in una busta. Falso, i soldi me li dava Zampolini, questo è il proprietario, mentre Bertolaso si difende, ci prova, dormivo in seminario e poi mi pagava l'affitto. Insomma, questo Francesco Silvano, con gli orari che facevo, non ce la facevo più in seminario, mi sono fatto prestare una casa. su Libero mi sono fatto prestare una casa. In primo piano. La politica si anima ancora per la vicenda delle intercettazioni, con il giornale molto duro Confini, come detto il titolo, adesso non lo ricordo, ma ce l'avevo qua sotto mano. Ma chi lo sa? Fini cosa fa dell'Italia? Non lo so, mi sono perso il giornale, sono cose che capitano. E comunque si Fini si rimangia l'accordo sulle intercettazioni e quant'altro, c'è un Berlusconi molto arrabbiato. Ah ecco, Fini ingabbia l'Italia, questo per il giornale. Due citazioni della politica per poi passare all'altro sono questi. Che ha fatto il sindaco di Palermo Cammarata? Lo si legge a pagina 11 della Stampa. Doveva andare a processo, a testimoniare a processo, dal magistrato lo accusa di aver contribuito a provocare un disastro ambientale nella discarica di Bellolampo, ma Cammarata ha detto: impegni inderogabili. Qual era l'impegno inderogabile del sindaco di Palermo secondo Riccardo Arena della Stampa? Era in Sudafrica alla esordio della partita dell'Italia, Paraguay-Italia. Lui è il vice sindaco. Impegni inderogabili. Invece di andare dal magistrato, un bel esordio. Il bel esordio, bello poi, a metà dell'Italia, dell'Italia in Paraguay, caro Cammarata. Oggi la cercheremo per capire se vuole dire la sua verità, magari stasera alla Zanzara. Mentre per quel che riguarda sempre la politica, segnalo un'intervista all'ex presidente di Confindustria, presidente di BNL, Abete, che parla di Montezemolo, lo fa il Corriere della Sera. Montezemolo in politica, eviti, è l'ex leader di Confindustria. Sono amico di lunga data sia di Luca, sono amico anche di Emma Marcegaglia, che ho visto crescere in Confindustria. E Abete dice: Montezemolo stia attento, la Confindustria è un'associazione autonoma, apartitica, agovernativa, la formula delle tre A che risale proprio al mio mandato di presidente, concorre all'attività di formazione delle leggi e quindi dentro la politica, ma come entità distinta e in ogni caso lontana dai partiti. Montezemolo è sempre un past president. In questo caso conta anche il tempo. Chi è stato a capo di Confindustria mantiene un alone di riconoscibilità agli occhi dell'opinione pubblica. Certo, come libero cittadino può rendersi promotore di un progetto politico. Ma insomma dice non entri in politica. Alla domanda di Giuseppe Sarcina, ma ci entrerà o no? Lui dice di no, io gli credo, ma è una persona certamente imprevedibile. Ora, abbandonando la politica, vorrei passare invece alla vicenda di cronaca più importante, quella secondo me dell'arresto del figlio di Sandokan, il capo dei casalesi, il figlio di Schiavone, l'arresto di Nicola Schiavone. Sandokan, pentiti, il tuo potere è finito. Così comincia, così è il titolo di una lunga lettera che Roberto Saviano dedica proprio e scrive a Sandokan Schiavone, e che è una bellissima lettera accorata che trovate in un'intera pagina di Repubblica, inizia in prima pagina. Ora che ti hanno arrestato anche il primo figlio, è giunto il tempo di collaborare con la giustizia, Francesco Schiavone. Sandokan ti chiama ormai la stampa, Ciccio Barbone i paesani, Schiavone Francesco di Nicola ti presentano i tuoi avvocati, e Nicola, come tuo padre, hai chiamato tuo figlio, a cui hai dato lo stesso destino, destino di killer, accusato di aver ucciso tre persone, tre affiliati che avevano deciso di passare con l'altra famiglia, i Bidognetti. Nessuno si sente più sicuro nella tua famiglia, il tuo gruppo ormai non ti dà sicurezza, non ti resta che pentirti. Questa mia lettera si apre così. Non può iniziare diversamente, non può cominciare con un caro, perché caro non mi sei per nulla. Neanche riesco a porgertelo per formale cortesia, perché la cortesia rischia già di divenire una concessione che va oltre la forma. Scrivendo non userò né il voi, che considereresti doveroso e di rispetto, né il lei. Chi usa lei, lo so bene, per voi camorristi si difende dietro una forma perché non ha sostanza. Allora userò il tu, perché è soltanto a tu per tu che posso parlarti. E questa appunto è una lunga, accorata lettera di Roberto Saviano. Sandokan, pentiti, il tuo potere è finito. Ricorda all'interno Saviano: 4 anni fa feci un invito nella piazza di Casal di Principe alle persone, soprattutto ai ragazzi presenti. Li invitai a cacciarvi dai vostri paesi. a disconoscervi la cittadinanza, a togliere il saluto alle vostre famiglie. Michele Zagaria, Antonio Iovine, Francesco Schiavone, non valete niente. Sulle pareti di Casal di Principe mai è apparso un insulto a te, neanche dopo la strage di Casa Pesenna che avevi ordinato. Invece decine e decine le scritte contro di me. E poi, per concludere, può sembrarti assurdo, ma siccome nessuno te lo chiede, te lo ripeto io un'altra volta, collabora con la giustizia prima che tutti i tuoi figli finiscano in galera o ammazzati, prima che le tue figlie siano costrette a matrimoni combinati per farti contare ancora qualcosa, prima che i tuoi nipoti debbano tutti legarsi attraverso matrimoni agli imprenditori locali per cercare di controllarli, sempre, ovunque, in ogni momento. Invita a pentirsi anche tuo fratello Walter. Invita a consegnarsi a Antonio Iovine e Michele Zagaria. Sarebbe un gesto che ridarebbe a te e ai tuoi dignità di uomini. Provate ad essere uomini e non utili bestie feroci da business e accordi. Collabora con la giustizia, mostra che sei ancora un essere umano e non solo un agglomerato di cellule capace solo con rancore e avidità di strisciare di covo in covo o di cella in cella. Si conclude così la lettera di Roberto Saviano. Legata a questa vicenda, insomma vicenda di mafia, c'è tutta la polemica sul Ministero degli Interni che ha negato la protezione al pentito delle stragi di mafia, Gaspare Spatuzza, e l'apertura anche del Fatto Quotidiano, Spatuzza, vendetta di governo. Incredibile, in un'intervista la definisce così, incredibile Mantovano, il sottosegretario all'interno che presiede questa commissione che ha negato la protezione a Spatuzza, rifiutato il programma di protezione perché? Perché le rivelazioni sono arrivate fuori dalle regole, cioè fuori dal termine dei 180 giorni consentiti per fare le dichiarazioni da quando uno è collaboratore di giustizia. E Mantovano dice: non mi sento per nulla in imbarazzo, facevo il magistrato, abbiamo applicato la legge. Se fosse stata tirata in ballo un'altra persona meno importante di Berlusconi nella dichiarazione di Spatuzza, avrei fatto lo stesso. Infine, guai per Vasco Rossi, solo Repubblica lo mette in grande risalto. 30 grammi di cocaina, l'autista di Vasco Rossi è stato fermato, ma dice era per uso personale. Pagina 20 di Repubblica, l'autista di Vasco Rossi. Siamo qui in diretta alle 8:18 minuti, ben ritrovati 24 mattino, è il momento di soldi e dintorni. Soldi e dintorni. Eccoci, oggi c'è Valentina Furlanetto. Buongiorno. Sì, buongiorno Alessandro. Ciao, buongiorno Valentina. Agli ascoltatori. Oggi siamo qui, domani tornerà Deborah Rosciani, rassicuro già gli ascoltatori. Oggi siamo qui a parlare di fondi pensione. Questo sarà anche l'argomento di Salvadanaio di domani, ve lo preannuncio, perché ieri c'è stata la presentazione della relazione annuale della COVIP, la commissione di vigilanza proprio sui fondi pensione, e oggi vogliamo commentare i dati che sono stati diffusi. Lo facciamo insieme a Sergio Sorgi, vicepresidente di Progetica. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, questo argomento sta molto a cuore ai lavoratori che appunto possono scegliere se dare ai fondi pensione la loro liquidazione, il TFR. Spieghiamo, Sorgi, che in cosa consistono i fondi pensione? Non è mai così scontato che tutti lo sappiano. Sì, i fondi pensione sono degli strumenti, delle soluzioni sia collettive che individuali che consentono alle persone di integrare la propria previdenza pubblica che a causa della generale diminuzione della spesa sociale e dell'invecchiamento della popolazione ci darà sempre meno prestazioni. Di conseguenza sono stati istituiti fondi pensione. I fondi pensione consentono ai lavoratori di accumulare denaro che verrà trasformato in rendita vitalizia nel momento in cui si raggiungono i requisiti pensionistici pubblici, quindi all'età del pensionamento della pensione pubblica, hanno incentivazioni fiscali e sono strumenti di diversi tipi. Ci sono quelli negoziali o occupazionali, che sono quelli indetti dalle categorie, ci sono i fondi aperti, che sono fondi collettivi individuali gestiti da banche e compagnie, e poi ci sono prodotti più squisitamente individuali, che sono piani individuali pensionistici. Allora, ieri c'è stata questa relazione della COVIP e ci sono stati dei dati che adesso vorrei commentare con lei. Innanzitutto vediamo un incremento dell'8,5% per tutto l'anno 2009 dei fondi di tipo negoziale, quelli chiusi, che mi sembra che in generale siano quelli che vanno meglio, è così? Ma diciamo che l'andamento finanziario è molto connesso al comparto e quindi al tipo di investimento che è stato prescelto, e il comparto a sua volta dovrebbe, e uso volutamente il condizionale, essere figlio del tempo, cioè di quanto manca ad andare in pensione. Quindi in realtà le differenze più che fra un tipo e l'altro, secondo noi, dovrebbero essere dal punto di vista del lavoratore analizzate sotto il profilo del comparto di investimento. Questo non significa che tutte le soluzioni siano identiche, ci sono differenze di costo, di personalizzazione e di servizio, ma i rendimenti andrebbero analizzati più sotto il profilo individuale, quindi del tempo e del comparto di investimento, che sotto il profilo di categoria. Allora, Sergio, le lasciamo il tempo di magari spegnere il cellulare e intanto sentiamo il presidente della COVIP, Antonio Finocchiaro, che ieri alla presentazione dell'indagine sulla previdenza complementare e l'età pensionabile ha parlato del perché non decollano, perché in realtà sono iscritti solo il 22% dei lavoratori. Sentiamolo al microfono di Maria Chiara Grandis. Innanzitutto c'è un fattore esogeno che è la crescita. Se senza crescita non c'è crescita economica, non c'è crescita dell'occupazione, se non c'è crescita dell'occupazione non c'è crescita delle adesioni. Questo è un fattore naturalmente che non è nella possibilità della Covid muovere. E poi invece ci vuole una buona educazione previdenziale, perché in presenza della crescita i lavoratori possono fare delle scelte razionali e eventualmente aderire alla previdenza complementare. Alla Covip ieri c'era anche il ministro del welfare Maurizio Sacconi e ieri ne hanno parlato anche a Focus Economia. Risentiamo allora questo passo dell'intervento del ministro. Il governo è impegnato a promuovere l'ulteriore sviluppo dei fondi pensione che nel nostro paese hanno dimostrato prudenza e buona gestione nel corso della crisi, in modo con i quali essi sono stati regolati è risultato positivo, e quindi nonostante permangano condizioni di instabilità nei mercati finanziari riteniamo possibile e doveroso sviluppare ulteriormente la cultura previdenziale. Lo faremo anche con un giorno dedicato proprio alla cultura previdenziale, un giorno per il futuro nelle scuole e nei luoghi di lavoro. Allora, cultura previdenziale e crisi, abbiamo sentito che sono i due grandi temi. Sergio Sorgi. Sì, assolutamente. Partiamo dall'educazione finanziaria o previdenziale. È fondamentale che le persone imparino, tutte le persone imparino a ragionare sulla propria vita, ne comprendano i bisogni economici da quelli immediati a quelli del pensionamento e comincino a fare i conti con il proprio futuro. Non si consiglia mai in questo senso di far da sé, ma di appoggiarsi a intermediari e operatori professionali, ma è importantissimo che i cittadini comprendano i nuovi bisogni del secolo e sappiano scegliere con fiducia. La crisi come influisce, come ha influito? La crisi influisce sotto due versanti. Il primo è stato di calo delle prestazioni, questo sia sulla previdenza pubblica, che ricordiamoci è legata al PIL, e quindi il calo del PIL di questi due anni avrà delle conseguenze sulla previdenza pubblica, che in termini di rendimenti dei fondi pensione. Ricordiamoci però che i fondi pensione hanno orizzonti di durate pluridecennali e quindi osservarne l'andamento con riferimento a un trimestre o un anno mette molta ansia ma non aiuta alla comprensione del futuro. L'ultima cosa, se posso, è che l'educazione finanziaria è importante, ma non è tanto importante conoscere a fondo gli strumenti, o meglio è meno importante che imparare a ragionare sul futuro. Educazione previdenziale significa che ognuno di noi deve essere consapevole di quello che avverrà, e questo riguarda la vita, non tanto le caratteristiche tecniche di prodotto. Sorge, abbiamo un minuto, volevo chiudere con l'andamento dei vari settori, no? Ho visto che gli unici fondi a risultare positivi nel biennio 2008-2009 sono stati quelli chiusi con l'1,7%, quindi quelli aperti e i cosiddetti PIP sono andati un po' peggio. E diciamo che anche qui il rapporto Covid analizza i comparti e nel biennio hanno performato meno del TFR gli azionari bilanciati, ma è naturale perché è un biennio che ben conosciamo, mentre le altre categorie, i garantiti, gli obbligazionari si sono comportati meglio. Se però allarghiamo l'orizzonte a 5, 10 o 20 anni, vediamo, e la Covid lo definisce molto bene questo, che il premio di rischio dei comparti azionari è rispettato e quindi si consiglia, laddove ci sia tempo, di investire in profili con più alto profilo di rischio, perché questo storicamente è potrebbe pagare. Grazie a Sergio Sorgi, vicepresidente di Progetica. E oggi invece, Alessandro, a Salvadanaio parliamo delle tariffe biorarie. Benissimo, grazie Valentina. Ovviamente l'appuntamento alle 12 con Salvadanaio. Noi nel nostro sondaggio di oggi parliamo di Fiat, l'accordo su Pomigliano che i sindacati hanno firmato, ma non la FIOM, che dice questo accordo per portare la produzione della Panda Pomigliano non ci sta bene perché presenta degli elementi di ricatto e incostituzionali. Secondo voi la FIOM ha fatto bene a non firmare? Fa bene a non firmare? Alle 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora nel nostro sondaggio di oggi parliamo della vicenda Fiat Pomigliano e del no della firma, che manca per ora, ci è arrivato il no della FIOM. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, i termini della questione, molto in sintesi, poi ci saranno gli ospiti che ci aiuteranno, sono questi: Fiat mette sul piatto 700 milioni di investimenti per riconvertire l'impianto di Pomigliano d'Arco, 5.000 dipendenti circa, ma con il dotto si arriva a 15.000, e produrre qui la Panda in Italia e non in Polonia. Per farlo però i sindacati devono stipulare un accordo che tutti i sindacati hanno firmato, non la FIOM, perché ci sono alcuni punti dell'accordo. Oggi il Sole 24 Ore ne ricorda i punti più controversi, sono 18 i punti dell'accordo, ma una nuova redistribuzione degli orari e dei turni di lavoro. Oppure un altro punto dell'accordo che la FIOM non sta bene: l'azienda che può tagliare contributi e permessi sindacali ai sindacati, decidere anche provvedimenti disciplinari fino al licenziamento in caso di mancato rispetto dell'intesa, per esempio se uno sciopero viene proclamato in un giorno di straordinario comandato. Oppure ancora misure contro l'assenteismo che nello stabilimento di Pomigliano, questo è un problema oggettivo, in passato ha raggiunto alcuni picchi anomali in alcune coincidenze, tipo quando ci sono le elezioni. E allora, per misure contro l'assenteismo si è stabilita una possibilità di misura, la non copertura retributiva a carico dell'azienda dei periodi di malattia correlati al periodo dell'evento. Allora, alcuni di questi punti per la FIOM sono inaccettabili e dunque non c'è la firma. Secondo voi fa bene la FIOM a non firmare? Io ne parliamo con due politici che conoscono anche molto bene però il mondo del lavoro. Sono l'onorevole Giuliano Cazzola del Popolo della Libertà. Buongiorno Cazzola. Buongiorno a lei. Così come saluto Maurizio Zipponi, che è responsabile del lavoro dell'Italia dei Valori. Buongiorno Zipponi. Buongiorno. Possiamo dire, insomma, Cazzola, giusto poi argomenterete, ma Cazzola è contro il no della FIOM, mentre Zipponi, come l'Italia dei Valori, sostiene la posizione della FIOM. Saluto anche Giuseppe Dinarelli, che ci ascolta. Buongiorno Dinarelli. Buongiorno. È delegato RSU della Fiat di Pomigliano d'Arco, per l'appunto. Cazzola, lei come giudica la posizione della FIOM? Ma io cosa vuole? La giudico consueta, tristemente consueta, in quanto mi pare che sulla vicenda della Fiat di Pomigliano ci sia molto dietrologia. Io non credo che ci sia un modello di relazioni industriali, che ci sia un attacco della Confindustria che si fa scudo della Fiat allo sciopero e alla questione della malattia. Lì ci sono delle questioni molto pratiche. Una multinazionale che ritiene per ragioni strategiche di investire su Pomigliano, rilocalizzando produzioni che sono state portate all'estero, vuole risolvere alcuni problemi che sono molto pratici. Avere livelli di lavoro e di produttività almeno comparabili, non dico con quelli della Polonia, ma con quelli degli Stati Uniti d'America, con quelli che i grandi sindacati occidentali come l'Unione dei lavoratori dell'auto di Detroit e del Canada gli hanno concesso, in termini appunto anche di pace sindacale, di pace aziendale. Lì c'è una conflittualità che ha avuto delle anomalie, c'è un assenteismo che ha avuto delle anomalie, per cui si propone di risolvere in termini assolutamente pratici quel problema, tra l'altro istituendo con, comitati paritetici che hanno il compito di verificare queste anomalie. Non c'è una discrezionalità della Fiat di applicare le sanzioni. Quindi lei dice, in cambio di occupazione si chiede una maggiore produttività, chiedendo uno sforzo per risolvere alcune anomalie che ci sono state in passato. Si presentano in quello stabilimento e che nessuno ha negato, nessuno ha negato che ci siano punti di assenteismo anomalo, che ci siano anche, ci sia anche una conflittualità anomala, legata anche a, diciamo, a una situazione, a un disordine proprio di quell'area molto critica. Tra l'altro non dimentichiamo che parliamo di un'area che ha tanti problemi dal punto di vista civile e sociale. Sì, per esempio si ricordava, ma qui vorrei anche a Zipponi, sui dati dell'assenteismo, che quando ci sono state le elezioni più o meno 1518 dipendenti su 4473 sono stati impegnati nello scrutinio dei voti delle politiche del 2008. Ecco, questi dati di assenteismo, vorrei arrivare a Zipponi, sono un problema pratico oggettivo, e la soluzione è la soluzione giusta, o perché invece voi dite dell'Italia dei Valori no, noi stiamo dalla parte degli operai, la Fion fa bene a non firmare? Che tipo di ricatto ci sarebbe da parte della Fiat? Ma guardi, sicuramente Italia dei Valori è perché la Fiat investa, perché lì in quell'area 5.000 lavoratori diretti e altri 10.000 dell'indotto abbiano un futuro, ma soprattutto perché quell'azienda sia produttiva, redditiva ed competitiva con altri impianti. Quindi questo è il primo presupposto chiaro. Il secondo presupposto è che in tutta Europa, dalla Volkswagen all'Audi, alla BMW, alla Renault, insomma, facciamo tutti i nomi di aziende europee, questa efficienza, questa qualità del prodotto avviene non ricattando i lavoratori, ma coinvolgendoli, facendoli partecipare. Ora, il quesito che si pone oggi ai lavoratori di Pomigliano attraverso un referendum farsa è: vuoi essere licenziato subito o preferisci soffrire nel tempo? Ora, se solo un centesimo di quello che si fa a questi lavoratori, e poi penso avremo anche un minuto di tempo per dire cosa c'è scritto nell'accordo, tanto sulle 24 ore già anticipo alcuni pezzi critici, ecco, se solo un centesimo di quello che si chiede a questi lavoratori lo si chiedesse ai magistrati, ai giornalisti, ai professori universitari, altro che intercettazioni, sarebbe la rivoluzione in Italia. Lei dice, bisogna avere anche un minimo di pazienza. Cioè, dice, si scarica, si chiede di più sacrifici alle persone che, diciamo, hanno... Ma io dico sacrifici inutili, perché siamo d'accordo sul primo presupposto. Tutte le aziende automobilistiche europee finiscono di lavorare il venerdì sera. Qui si lavora fino alla domenica mattina. La Fiom ha detto di sì. Si è detto che vogliono fare 280.000 auto Panda, la Fiom ha detto di sì. Cosa c'entra intervenire sul diritto di sciopero? Cosa c'entra? Cioè, la stanno buttando in politica e in ideologia. È questa l'accusa che si fa. Cazzola, risponda su questo. Cioè, l'accusa, lei l'ha detto subito in apertura del suo intervento, però il timore da parte della Fiom è che non sia una normale vertenza sindacale, ma un tentativo di cambiare anche il futuro del mercato del lavoro italiano. Guardi, lo statuto del lavoratore. Voglio ricordare che alcuni anni or sono tutti i grandi stabilimenti europei di industria manifatturiera di altri paesi hanno concordato con i sindacati delle condizioni, tra l'altro anche di riduzione salariale, di riduzione di aumento degli orari di lavoro a parità di salario per evitare processi di delocalizzazione. Questo è un dato di fatto che per esempio in Italia non si è verificato. Io però voglio chiedere a Zipponi: quale diritto costituzionale si viola se l'azienda smette di versare, diciamo prelevare i contributi dalle buste paga e di versare alle organizzazioni sindacali? C'è stato un referendum votato dagli italiani che hanno ritenuto, che hanno abrogato questa norma che era contenuta nello statuto dei lavoratori. Io sono assolutamente convinto, anche sul piano diciamo così, del diritto, di un principio generale del diritto che recita nel broccardo latino inadempienti non est ad implendum, per cui se un'organizzazione sindacale fa un filibustering con lo sciopero, come è successo a Pomigliano, forse non attraverso le grandi organizzazioni sindacali, ma comunque a Comigliano c'è anche una forte presenza di Cobas. Io sono assolutamente convinto che un'azienda è assolutamente abilitata a smettere di prelevare, di pagare i contributi. Io più che altro ho io una domanda a Zipponi sul fatto che le altre sigle sindacali hanno firmato, e allora chiedo perché firmerebbero un qualcosa di palesemente incostituzionale in alcuni suoi aspetti, come lei dice, la questione dello sciopero. Perché Zipponi, le altre sigle sindacali firmerebbero un accordo incostituzionale? Bisogna chiedere altre sigle sindacali perché rinunciano a fare il sindacato. A me solo la FIOM sta facendo veramente il sindacato in questo momento. Io ragiono su Pomigliano. Su Pomigliano la FIOM sta dicendo: si può fare una fabbrica che funziona, si devono togliere quelle anomalie che anche lei citava, perché non è possibile che in un periodo elettorale manchino 1.500 persone, quindi bisogna intervenire sull'anomalia. È inaccettabile colpire nel mucchio, però mi interessa rispondere con precisione, anche a solo per due precisi vorrei esserlo anch'io. Io dichiaro che è incostituzionale impedire al singolo lavoratore, una volta che fa le sue 40 ore di lavoro settimanale, se viene obbligato a fare altro orario di lavoro, altro straordinario, è incostituzionale se il lavoratore decide di scioperare, che addirittura se sciopera rischia il licenziamento, cioè non si può ledere il diritto della persona a rivendicare oggi o domani, ad esempio, di migliorare questo accordo. Io vorrei, se fossi un lavoratore che lavora lì 40 anni, a fare per 40 anni lo stesso lavoro di un minuto ogni volta in una catena, vorrei dire, quando arrivo a 50-60 anni ho la schiena spezzata, che forse vorrei avere un po' più di pausa in base anche all'età. Diciamo, delle cose vorrei dirle se fossi un lavoratore in quell'azienda per migliorare. Rischio addirittura il licenziamento, ma stiamo scherzando? Si tratta di trasformare a Pomigliano un rapporto di lavoro in un rapporto di schiavitù. Non funzionerà la fabbrica, non funziona la fabbrica. Guardi, Valentino ha parlato ieri alla Zanzara, ci ha detto che si torneranno i lavoratori robot. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Allora, la vicenda Fiat Pomigliano, Giuseppe Di Narelli, eccoci qua, buongiorno. Anni 32, mi sembra di capire, giusto? Sì. Anni 32. Anni, buongiorno. Buongiorno, lei a posto a Pomigliano, nei immagino tante assemblee che si fanno tra i lavoratori per capire come comportarsi. Un problema oggi viene scritto nei giornali anche di cultura sindacale. Cioè, lei dice: dovremmo dire non un no ma un sì a condizione che vuol dire? Sì, vabbè, questa è stata una mia dichiarazione durante il comitato centrale a Roma. In pratica bisognava votare sul documento finale, dove appunto il documento titolava il no all'accordo, e nella mia dichiarazione di voto, appunto prima di votare, ho chiesto al comitato centrale di tener presente una mia idea, quella lì di modificare il testo prima di votarlo e di scrivere, invece di no, ad esempio, leggo citamente, diceva il documento, il comitato centrale decide che la FIOM non può firmare un testo con contenuti che mettono in discussione diritti individuali, deroga al contratto, vabbè, e con profili di legittimità. Sì. E quindi si dice che il comitato centrale della FIOM ribadisce la piena disponibilità a garantire con l'efficienza la flessibilità produttiva dello stabilimento attraverso così cose. Allora, la mia proposta è stata appunto questa: invece di dire subito no, anche per dare un segnale a tutti quelli che hanno gli occhi puntati su di noi, dalla Fiat, dall'istituzione, dai politici, dai giornalisti, dagli operai, tutti quanti, diamo un segnale, anche se partendo dal testo, diciamo sì a questo accordo, a condizione che poi non si deroghi al contratto nazionale, allo statuto. Alcuni aspetti. Quindi una posizione propositiva verso un sì, però poi discutiamo su alcuni punti che mi pare sono quelli a cui faceva riferimento Zipponi, anche che non sì, riguardo l'assenteismo, il diritto allo sciopero. Senta, però la questione dell'assenteismo, cioè, ce la vuole chiarire, perché sono usciti dei dati che a me hanno un po' imbarazzato, cioè ci sono dei picchi di assenteismo quando ci sono state soprattutto le elezioni, oppure pare anche scioperi durante le partite, cioè in occasioni dove non ci sono eventi epidemiologici, ecco, diciamo così, ma ci sono le elezioni e ci sono un quarto dei dipendenti che sono in o scrutatori, rappresentanti di lista. Com'è questa cosa? Cioè, è vera? Allora, dobbiamo fare un attimo differenza tra i due tipi di assenteismo, cioè i certificati medici di malattia, quelli di vittimo, a prescindere se sono dovuti a problemi epidemiologici oppure per legati ad altri eventi, sì, e invece alle assenze dovute, ad esempio in questo caso, dei permessi elettorali. Ci sono queste assenze anomale? Anomale. Ma guardate, sicuramente sì, sono tanti i lavoratori che si mettono a permesso elettorale in quei giorni, molti di meno rispetto alla stessa fabbrica di Melfi, dove i certificati elettorali addirittura raddoppiano rispetto a Pomigliano. E vabbè. Quindi dicono, fanno adesso di Pomigliano la... diciamo la pecora nera, per realtà, vabbè, non ne voglio fare adesso. No, non voglio, cioè, sono alti, ma ci sono altri che sono ancora più alti a Melfi. Sì, nel senso, sì, sì, c'è un'anomalia. Sì. Questo secondo me rientra un po' sul fattore delle condizioni di lavoro, nel senso che il lavoratore è come se aspettasse le elezioni per avere quei 3-4 giorni diciamo di riposo in più, ma sono eventi, diciamo, sì, particolari, dove sì, magari è giusta una discussione su questo. Diversamente invece la questione della malattia, cioè lì legata a alcuni, dice l'azienda, l'hanno messo scritto sul testo, addirittura il primo testo parlava proprio di alcuni eventi con delle date, quindi di alcune partite, e lì arrivavano certificati elettorali, cioè certificati, voglio dire, di malattia. Cioè quando c'erano le partite, che partite? C'erano i mondiali di quattro anni, stiamo parlando di due eventi. Ah, tipo i mondiali di calcio di quattro anni fa. Ah sì, perché lei si è laureato anche a Napoli su una tesi su Pomigliano. La nostra fabbrica, sulla storia della nostra fabbrica. Quindi stiamo parlando, se parliamo di partiti, di eventi rari, mentre sono molti di più gli eventi di picchi di malattia alti, altissimi, stiamo parlando di percentuali altissime. Durante gli scioperi nazionali programmati dal sindacato, l'azienda questo non lo dice, non lo dice perché lo so per certo, io perché l'ho ascoltato con le mie orecchie, quando c'erano gli scioperi del sindacato, l'azienda per abbassare il livello di adesione allo sciopero invogliava i lavoratori a mettersi a malattia. È una visione, allora, un po', di questo, parla solo delle partite, che i mondiali sono stati 4 anni fa l'ultima volta, e durante gli europei invece di 2 anni fa il direttore ci ha concesso di fermare la produzione e di farci vedere la partita su questo vorrei Cazzola vuole replicare su questo, cioè quando c'è lo sciopero generale, io l'ho sempre letta nei giornali così, c'erano casualmente delle malattie, così uno stava a casa ma non perdeva la paga, invece ci dice Di Narelli. Io ringrazio quel lavoratore, perché sostanzialmente ha rappresentato la situazione di Pomigliano, di una fabbrica che non può pensare di avere una presenza, un futuro nel contesto mondiale dell'industria dell'auto a cara luce e vino, così come vanno le cose. Guarda che Zipponi ha parlato di schiavitù, cioè di... Ma infatti si è visto la schiavitù. Vede, una volta Giugni scrisse, Gino Giugni, che leggere il giornale è un diritto costituzionale, però aggiunse subito dopo che se uno è al lavoro il giornale non lo può leggere. Non è che i diritti costituzionali valgono sempre, cioè fare andare a un seggio è un diritto, è indubbiamente un diritto, però ecco, non è che si può svuotare una fabbrica perché tutti vanno a un seggio. E vedere le partite è un diritto, però questa cosa uno se la vede alla sera quando finisce di lavorare, insomma. Però ci dice Di Narelli, sono eventi, sono eventi da impiego statale, ecco, lì a Pomigliano d'Arco, e secondo me la Fiat fa bene a volerne venire a capo, secondo me con mezzi assolutamente legittimi, peraltro con una proposta di compartecipazione che fa i sindacati. E quindi io sinceramente resto allibito che Marchionne va in America e riceve diciamo un sostegno da Barack Obama, no? un atteggiamento positivo, perché salva degli importanti posti di lavoro facendo molte più cose di quelle che non ha fatto in Italia. Qui sembra che siamo noi a fargli un piacere, sembra che sia l'azienda Italia, questo paese incapace di cambiare, a fargli un piacere se investe 700 milioni a Pomigliano. Allora io su questo lei diciamo rimane allibito. Dinarelli, io ho 30 secondi, senta, come andrà il 22 giugno? C'è questo referendum tra i lavoratori, qual è il polso, ci dica? Sono onestamente, sono più quelli che dicono ragazzi, qua però bisogna anche lavorare, capiamo che bisogna cedere da un certo punto di vista, ma il lavoro, la tutela del lavoro viene prima, oppure c'è la linea un po' intransigente che prevale? Allora, c'è sicuramente un senso di responsabilità da parte dei lavoratori che ci tengono a quella fabbrica. Siamo stati 2 anni lottando per l'Italia, portando la striscione Pomigliano non so, perché chiedevamo una missione produttiva. Non è che adesso siamo pazzi, che arriva la missione produttiva e noi la respingiamo solo perché si tratta di lavorare i 3 turni o questioni di merito. I lavoratori sanno consapevolmente adesso, in questi giorni, da pochi giorni, che in realtà il piano non è la lettera che ha mandato il direttore a casa, che parla semplicemente di saturazione di impianti, ma è che dopo la pubblicazione che abbiamo fatto su internet del testo integrale dell'accordo ci sono dei diritti che vengono toccati, e dato che quella è una fabbrica molto sindacalizzata, ha una storia veramente grande alle sue spalle per quanto riguarda la lotta sui diritti. La sensazione dei lavoratori adesso è proprio questa, cioè di forte sconforto. Ci chiedono di continuare a batterci, di non mollare. La situazione dicono apertamente, messi davanti a un ricatto, bere o affogare, scegliere di vivere o di morire, quindi lavorare da schiavi con queste condizioni, oppure rimanere disoccupati in un territorio come la Campania, che lo sappiamo, è inutile parlarci su, è normale che messo con la pistola alla fronte il lavoratore dirà sì, meglio. Allora, lei dice così, staremo a vedere, perché io ho sforato anche un po', ringrazio tutti, Sara Sprafico in redazione, Peter Bescapè in regia, ci sentiamo alla Zanzara se volete, 18:35, ci sono anche stasera, altrimenti domattina.